Capitolo 8 agosto Ciampandongo. Ingredienti: 250 g di carne di bue macinata, 250 g di carne di maiale macinata, 200 g di noci, 200 g di mandorle, una cipolla, un cedro candito, due pomodori, zucchero, un quarto di panna, 250 g di formaggio manchego, 250 g di mole, comino, brodo di pollo, tortillas di mais, olio. Preparazione. Si trita finemente la cipolla e la si fa soffriggere con la carne in un po' d'olio. Mentre soffrigge si aggiunge il comino macinato e un cucchiaio di zucchero. Come al solito Tita piangeva mentre tritava la cipolla. Aveva la vista talmente offuscata che senza rendersene conto si tagliò un dito con il coltello. Lanciò un grido di rabbia e proseguì come se nulla fosse nella preparazione del ciampandongo. Non poteva perdere neppure un secondo per medicare la ferita. Quella sera sarebbe venuto John a chiedere la sua mano e doveva preparare una buona cena in mezz'ora soltanto. A Tita non piaceva cucinare in fretta. Dava sempre ai cibi tempi di cottura adeguati e precisi e cercava di organizzare i suoi impegni in modo tale da avere in cucina la tranquillità necessaria per poter preparare pietanze succulente e cotte al punto giusto. Ma in quella circostanza era così in ritardo che i suoi movimenti risultavano agitati e incalzanti e favorivano pertanto questo tipo di incidenti. Il motivo principale del ritardo era la sua adorabile nipotina, che era nata prematura, con 3 mesi di anticipo come lei. Rosaura era rimasta talmente scossa dalla morte della madre che aveva avuto un parto prematuro e le era impossibile allattare la piccola. In questa occasione Tita non aveva potuto o voluto adottare il ruolo di balia, come nel caso del nipote, o meglio, non aveva neppure tentato di farlo, forse per la disastrosa esperienza della sua separazione dal bambino. Ora sapeva che non bisognava stabilire rapporti troppo intensi con bambini che non sono i propri. Preferì invece dare speranza alla stessa alimentazione che Nacha aveva adottato con lei quando era un esserino indifeso, tè e atole. La battezzarono con il nome di Speranza su richiesta di Tita. Pedro aveva insistito perché la bambina portasse lo stesso nome di Tita, Josefita, ma lei si era decisamente rifiutata. Non voleva che il nome influisse sul destino della bambina. Aveva già sofferto abbastanza appena nata. La madre aveva avuto tutta una serie di disturbi, tanto che John era stato costretto a operarla d'urgenza per salvarle la vita. E questo le avrebbe impedito per sempre di avere altri figli. John aveva spiegato a Tita che a volte, per cause non comuni, la placenta non solo si insedia nell'utero, ma addirittura vi mette le radici. Di conseguenza, nel momento in cui il bambino nasce, la placenta non può staccarsi. Aderisce così fortemente all'utero che se una persona inesperta nel tentativo di aiutare la madre la tira servendosi del cordone ombelicale, strappa via anche l'utero. È necessario allora operare d'urgenza e asportarlo. L'utero, togliendo alla donna ogni possibilità di rimanere ancora incinta per il resto della sua vita. L'intervento chirurgico subito da Rosaura non era dovuto all'inesperienza di John, ma al fatto che non c'era altro modo per poterle staccare la placenta. Quindi Speranza sarebbe stata la sua unica figlia, la più piccola e per giunta donna. E questo, all'interno della tradizione familiare, significava che era la persona designata a occuparsi della madre fino alla fine dei suoi giorni. Forse Speranza aveva messo radici nel ventre materno perché sapeva in anticipo che cosa l'aspettava a questo mondo. Tita pregava affinché a Rosaura non passasse per la mente di perpetuare quella tradizione crudele. Per evitare che questo si verificasse, si oppose a che le mettessero il suo stesso nome e insistette giorno e notte affinché la chiamassero Speranza. Tuttavia, una serie di coincidenze associavano il destino di questa bambina a quello di Tita. Per cause di forza maggiore, ad esempio, trascorreva la maggior parte del giorno in cucina, poiché la madre non si poteva occupare di lei e la zia lo poteva fare solo in cucina. In questo modo, con tè e atole, cresceva sana e robusta tra gli odori e i sapori di quel luogo caldo e paradisiaco. Chi non gradiva appieno questa, diciamo, abitudine era Rosaura, sentiva che Tita le sottraeva la bambina per troppo tempo. E appena si fu completamente ristabilita dall'operazione, chiese che Speranza, appena finito di mangiare, venisse portata sempre in camera sua, così l'avrebbe fatta addormentare vicino al suo letto, perché era quello il suo posto. Quest'ordine era giunto troppo tardi, perché la bambina si era ormai abituata a rimanere in cucina e non era stato affatto facile toglierla di lì. Piangeva così tanto quando sentiva che la allontanavano dal calore della stufa, che Tita era costretta a portare in camera la pietanza che cucinava, nel tentativo di ingannare la piccola, la quale l'odore e il calore della pentola di Tita finivano per conciliare il sonno. Tita riportava quindi in cucina il pentolone e continuava a preparare da mangiare. Ma proprio quel giorno la bambina aveva fatto i capricci. Molto probabilmente intuiva che sua zia aveva deciso di sposarsi e di andarsene dalla fattoria. E temendo di rimanere alla deriva, non aveva smesso di piangere per tutto il giorno. Tita saliva e scendeva le scale, trasportando da una parte all'altra pentole piene di pietanze, finché accadde ciò che doveva accadere. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Mentre scendeva per l'ottava volta, inciampò e la pentola con il ciampandongo rotolò giù per le scale, mandando all'aria 4 ore di intenso lavoro spese a tritare e a macinare gli ingredienti. Tita si sedette su di un gradino con la testa fra le mani per prendere fiato. Si era alzata alle 5 del mattino per evitare di correre, ma era stato inutile. Ora doveva mettersi a preparare di nuovo il mole. Pedro non avrebbe potuto scegliere un momento peggiore per parlare con Tita. Ma approfittando del fatto che l'aveva incontrata per le scale in un atteggiamento di apparente riposo, le si avvicinò con l'intenzione di convincerla a non sposare John. Tita, vorrei dirle che considero un imperdonabile errore da parte sua l'idea di sposare John. È ancora in tempo a evitare questo errore. Non accetti quel matrimonio, per favore. Pedro, lei non è nessuno per dirmi quello che devo o non devo fare. Quando lei si è sposato, io non sono venuta a chiederle di non farlo. Nonostante quel matrimonio mi straziasse il cuore, lei ha fatto la sua vita, ora lasci che io faccia la mia in santa pace. Proprio per la decisione che ho preso io e di cui sono profondamente pentito, le chiedo di riflettere. Lei conosce perfettamente il motivo che mi ha unito a sua sorella. Tuttavia è stata una decisione inutile che non ha funzionato. Ora penso che avrei dovuto fuggire con lei. Beh, lo pensa troppo tardi. Ora non c'è più rimedio e la supplico di non venirmi più a disturbare e di non azzardarsi più a ripetere quanto mi ha appena detto. Mia sorella potrebbe sentire e non c'è motivo che ci sia un'altra persona infelice in questa casa. Con permesso? Ah, e le suggerisco la prossima volta che le capiterà di innamorarsi, di non essere così codardo. Tita, prendendo la pentola con rabbia, si avviò verso la cucina. Finì il mole tra borbottii e rumori di stoviglie, e mentre il mole cuoceva continuò a preparare il ciampandongo. Quando la carne comincia a rosolare, si aggiungono il pomodoro tritato assieme al cedro candito, le noci e le mandorle a pezzettini. Il calore del vapore della pentola si confondeva con quello del corpo di Tita. La collera che sentiva crescere dentro di sé era come il lievito con la pasta del pane, la sentiva crescere vorticosamente, inondare ogni angolo più recondito del suo corpo. È come la pasta che lievita in un recipiente piccolo, traboccare all'esterno, uscire sotto forma di vapore dalle orecchie, dal naso e da tutti i pori del suo corpo. Questa rabbia smisurata era causata in minima parte dalla discussione con Pedro, in parte dagli incidenti e dal lavoro della cucina, e in massima parte dalle parole che Rosaura aveva pronunciato alcuni giorni prima. Tita, John e Alex erano riuniti in camera della sorella. John aveva portato con sé il figlio durante la visita medica, perché il bambino sentiva molto la mancanza di Tita e voleva rivederla. Il bambino si era affacciato alla culla per conoscere Speranza ed era rimasto molto impressionato dalla bellezza della neonata. E come tutti i bambini di quell'età che non hanno reticenze, aveva esclamato ad alta voce: «Senti, papà! Anch'io voglio sposarmi come te, ma io con questa bambina». Tutti avevano riso della divertente battuta, ma quando Rosaura aveva spiegato ad Alex che questo non era possibile, poiché quella bimbetta era destinata ad avere cura di lei fino al giorno della sua morte, Tita si era sentita rizzare i capelli in testa. Soltanto a Rosaura poteva venire in mente una simile atrocità, perpetuare una tradizione addirittura inumana. Ah! Se a Rosaura fossero bruciate le labbra piuttosto che lasciarsi sfuggire quelle ripugnanti, abiette, incoerenti, fetide, indecenti e repellenti parole. Sarebbe stato meglio, mille volte meglio, che se le fosse ingoiate e le avesse sepolte nel fondo delle sue viscere fino a farle imputridire e riempire di vermi. Ah, se avesse potuto vivere tanto a lungo da impedire che sua sorella portasse a termine quel nefasto progetto. Insomma, non sapeva perché pensava cose tanto sgradevoli in momenti come quelli, che avrebbero dovuto essere per lei i più felici della sua vita, né conosceva il motivo di quella bruciante irritazione. Forse Pedro l'aveva contagiata con il suo malumore. Da quando era tornato alla fattoria con la moglie aveva saputo che Tita doveva sposarsi con John, era diventato insopportabile. Non si poteva neppure più rivolgergli la parola. Usciva molto presto a cavalcare, tornava a sera giusto in tempo per la cena e subito dopo si chiudeva in camera sua. Nessuno riusciva a spiegarsi questo comportamento. Alcuni credevano che l'idea di non poter avere altri figli l'avesse profondamente ferito. Qualunque fosse la causa, pareva che l'ira dominasse i pensieri e le azioni di tutti gli abitanti della casa. Tita si sentiva letteralmente ribollire di rabbia, come l'acqua per la cioccolata. In Messico la cioccolata spesso si prepara stemperando il cioccolato nell'acqua bollente. Era molto irritabile. Perfino il tanto amato tubare dei colombi che si erano nuovamente insediati sotto il tetto di casa e che il giorno del suo arrivo le avevano fatto tanto piacere, in quel momento la disturbava. Sentiva che la testa le stava scoppiando come un chicco di mais messo a tostare. Tentando di impedirlo, se la strinse forte con le due mani. Un timido tocco sulla spalla la fece trasalire e le venne voglia di picchiare la persona che sicuramente veniva a farle perdere tempo. Ma quale non fu la sua sorpresa nel trovarsi di fronte Cencia, la Cencia di sempre, sorridente, felice. Oh, non le aveva mai fatto tanto piacere vederla, neppure quando era venuta a farle visita a casa di John. Come sempre, Cencia arrivava a proposito, nel momento in cui Tita ne aveva più bisogno. Era sorprendente vedere come si era rimessa bene Cencia dopo lo stato di angoscia e di disperazione nel quale l'aveva vista partire. Non c'era nemmeno traccia del trauma che aveva subito. L'uomo che era riuscito a cancellarlo stava al suo fianco ed esibiva un ampio e sincero sorriso. Si capiva al primo sguardo che si trattava di un uomo onesto e silenzioso, ma forse, chissà. Era perché Cencia non gli aveva permesso di aprire bocca, se non per dire a Tita: Jesús Martínez ha i suoi ordini. Poi Cencia, come sempre, monopolizzò la conversazione e, superando ogni record di velocità, riuscì ad aggiornare Tita sugli ultimi avvenimenti della sua vita in soli 2 minuti. Jesús era stato il suo primo fidanzato e non l'aveva mai dimenticata. I genitori di Cencia si erano opposti drasticamente a questo amore e se non fosse stato perché Cencia era ritornata al paese ed egli l'aveva rivista, non avrebbe mai saputo dove cercarla. Naturalmente non gli era importato che Cencia non fosse più vergine e l'aveva sposata immediatamente. Ritornavano insieme alla fattoria con l'idea di ricominciare una nuova vita ora che mamma Elena era morta e pensavano di avere molti figli e di vivere felici nei secoli dei secoli. Cencia si interruppe a prendere fiato perché stava diventando violacea e Tita approfittò dell'interruzione per dirle, non così velocemente come lei, ma quasi, che era felice del suo ritorno nella fattoria, che all'indomani avrebbero parlato del contratto di Jesus, che oggi venivano a chiedere la sua mano, che presto si sarebbe sposata, che ancora non aveva finito di preparare la cena. Le chiese infine di cucinare lei per potersi fare un bagno calmante di acqua gelata ed essere presentabile quando John fosse arrivato, ossia da un momento all'altro. Cencia praticamente la cacciò dalla cucina e ne prese subito il comando. Il ciampandongo poteva farlo, secondo lei, a occhi chiusi e con le mani legate. Quando la carne è cotta e asciutta, si friggono le tortiglie a simpoco olio perché non diventino dure. Poi nella teglia che stiamo per infornare, si mette dapprima uno strato di panna perché la pietanza non si attacchi, sopra la panna uno strato di tortillas, sopra le tortillas uno strato di carne trita e per ultimo il mole coprendolo con fette di formaggio e panna. Si ripete questa operazione fino a riempire lo stampo e si mette in forno e si toglie quando il formaggio è sciolto e le tortillas si sono ammorbidite. Si serve con riso e fagioli. Che tranquillità per Tita, sapere che Cencia era in cucina. Ora doveva solo pensare a farsi bella. Attraversò il cortile come una raffica di vento e andò a fare il bagno. Aveva a disposizione solo 10 minuti per lavarsi, vestirsi, profumarsi e pettinarsi per l'occasione. Era così di fretta che non vide neppure Pedro all'estremo opposto del cortile posteriore che tirava calci alle pietre. Tita si liberò degli indumenti, si infilò sotto la doccia e lasciò che l'acqua fredda le cadesse sulla testa. Che sollievo provava! A occhi chiusi le sensazioni si fanno più acute. Poteva percepire ogni goccia d'acqua fredda che le percorreva il corpo. Sentiva che al contatto dell'acqua i capezzoli le diventavano duri come pietre. Un filo d'acqua le scendeva lungo la schiena e poi cadeva come una cascata nella curva dei suoi rotondi e protuberanti glutei per scorrere lungo le forti gambe fino ai piedi. A poco il malumore stava passando e l'emicrania le sparì. All'improvviso incominciò a sentire che l'acqua si intiepidiva e diventava sempre più calda fino a bruciarle la pelle. Questo si verificava a volte nella stagione calda, quando l'acqua del serbatoio era stata riscaldata tutto il giorno dai forti raggi del sole, ma non ora che non era estate e inoltre incominciava a far buio. Allarmata, aprì gli occhi, temendo che si incendiasse un'altra volta il bagno, e ciò che scoprì fu la sagoma di Pedro che dall'altra parte delle assi la osservava attentamente. Gli occhi di Pedro brillavano in modo tale che era impossibile non scoprirli nella penombra. Così come due insignificanti gocce di rugiada non possono passare inavvertite tra i rovi quando vengono toccate dai primi raggi del sole. Maledetto sguardo di Pedro e maledetto falegname che aveva ricostruito la stanza da bagno esattamente uguale alla precedente, ossia con spazi tra un'asse e l'altra. Quando vide che Pedro le si avvicinava con libidinose intenzioni negli occhi, corse via dalla stanza vestendosi rapidamente. Giunta con affanno nella sua camera, vi si chiuse dentro. Aveva appena finito di prepararsi quando Cencia venne ad annunciarle che John era arrivato e che l'aspettava in sala. Non andò a riceverlo immediatamente perché doveva ancora apparecchiare. Prima di mettere la tovaglia e bene coprire la tavola con un tappeto per evitare l'eccessivo tintinnio dei bicchieri e dei piatti. Deve essere di baglietta bianca per far spiccare il candore della tovaglia. Tita lo stese delicatamente sopra l'enorme tavola da 20 persone che veniva usata soltanto in occasioni come questa. Si sforzava di non fare rumore, neppure di respirare, per poter ascoltare parola per parola la conversazione tra Rosaura, Pedro e John che si stava svolgendo in sala. Un lungo corridoio separava la sala dalla camera da pranzo, quindi alle orecchie di Tita giungeva soltanto il mormorio delle voci maschili di Pedro e John. Tuttavia riusciva a percepire in esse un'intonazione polemica. Prima che la situazione trascendesse, dispose rapidamente i piatti, le posate d'argento, i bicchieri, le saliere e i portacoltelli nel dovuto ordine. Poi mise le candele sotto gli scaldavivande per i piatti di portata e li lasciò pronti sulla credenza. Corse in cucina a prendere il vino di Bordeaux che aveva messo a bagnomaria. I vini di Bordeaux si tolgono dalla cantina con parecchie ore di anticipo e si mettono in un posto caldo perché un leggero calore sviluppi il loro aroma, ma siccome Tita si era scordata di tirarlo fuori in tempo, aveva forzato il processo artificialmente. Le restava solo da sistemare il centrotavola, un cestino di bronzo dorato con i fiori, e poiché questi devono essere collocati all'ultimo momento, affinché conservino la loro freschezza naturale, incaricò Cencia di questo lavoro e, compatibilmente con quanto il suo vestito inamidato le permetteva, si avviò velocemente in sala. La prima scena a cui assistette quando aprì la porta fu l'accalorata discussione tra Pedro e John circa la situazione politica del paese. Sembrava che entrambi avessero dimenticato le più elementari regole di educazione che consigliano di non discutere in una riunione sociale di personalità famose di temi tristi o di avvenimenti infausti o di religione o di politica. L'ingresso di Tita interruppe la discussione e li costrinse a tentare di riprendere la conversazione con tono più amichevole. In un'atmosfera tesa, John chiese la mano di Tita. Pedro, come uomo della casa, diede la sua approvazione con fare sgarbato. Si cominciarono a stabilire i dettagli della cerimonia. Quando si trattò di fissare la data delle nozze, Tita venne a conoscenza del desiderio di John di posticiparla di poco per poter andare a prendere nel nord degli Stati Uniti l'unica zia che gli rimaneva e che aveva piacere fosse presente alla cerimonia. Questo rappresentava un grave problema per Tita. Lei desiderava andarsene al più presto dalla fattoria, lontano da Pedro. Il fidanzamento venne formalizzato quando John consegnò a Tita uno stupendo anello di brillanti. Tita osservò a lungo come le brillava sulla mano. Il suo scintillio le fece ricordare il fulgore negli occhi di Pedro poco prima, quando la osservava nuda, e ricordò una poesia Otomi che Nacha le aveva insegnato da bambina. Nella goccia di rugiada brilla il sole. La goccia di rugiada si asciuga nei miei occhi, nei miei. Brilli tu, io. Io vivo. Rosaura si commosse vedendo negli occhi della sorella lacrime che lei riteneva di felicità e si sentì alquanto sollevata dal senso di colpa che talvolta la tormentava per essersi sposata con il fidanzato di Tita. Allora, con grande entusiasmo, offrì a tutti una coppa di champagne e invitò a brindare alla felicità degli sposi. Nel brindisi, che i quattro fecero al centro della sala, Pedro urtò con la sua coppa contro quelle degli altri in modo così violento che il vetro andò in mille pezzi e spruzzi di champagne finirono sui visi e sui vestiti. Nello sconcerto generale fu una benedizione che in quel momento Cencia comparisse e pronunciasse la magica formula "la cena è servita". Questo annuncio restituì ai presenti la serenità e lo spirito che la circostanza richiedeva e che tutti avevano rischiato di perdere. Quando si tratta di mangiare, fatto del resto importante, soltanto gli sciocchi o i malati non gli attribuiscono l'interesse che merita. E siccome non era questo il caso, tutti si avviarono di buon umore verso la sala da pranzo. Durante la cena tutto fu più facile, grazie alle divertenti battute che Cencia faceva mentre passava a servire. I piatti non furono così allettanti come in altre occasioni, forse perché il malumore aveva accompagnato Tita mentre li preparava. Ma neppure si poteva dire che non fossero buoni. Il champandong è una pietanza dal sapore talmente raffinato che non deve essere sfiorato e alterato da alcun disappunto. Finita la cena, Tita accompagnò John alla porta e si salutarono con un lungo bacio. John intendeva partire il giorno dopo per essere di ritorno al più presto. Tornata in cucina, Tita mandò Cencia a pulirsi la stanza e il materasso dove da quel momento avrebbe vissuto con suo marito Jesus, non senza prima ringraziarla per il grande aiuto che le aveva dato. Era necessario che prima di infilarsi nel letto controllassero che non vi fosse l'indesiderabile presenza di cimici nella stanza. L'ultima donna di servizio che vi aveva dormito l'aveva infestata e Tita non era riuscita a occuparsi della faccenda a causa dell'intenso lavoro che le era piombato addosso con la nascita della bambina di Rosaura. Il miglior metodo per eliminare del tutto le cimici è mescolare un bicchiere di alcol di vino, mezza oncia di essenza di trementina e mezza di canfora in polvere. Questo preparato, sparso nei luoghi dove ci sono delle cimici, le fa sparire completamente. Tita, dopo aver lavato i piatti, incominciò a riporre stoviglie e pentole al loro posto. Non aveva ancora sonno e preferiva occupare il tempo in queste incombenze piuttosto che rigirarsi nel letto. Provava una serie di sentimenti contrastanti e il modo migliore di metterli in ordine nella sua testa era di mettere prima ordine in cucina. Prese una grossa pentola di terracotta e la andò a collocare al suo posto nello stanzino delle masserizie, che una volta era stato la camera del bagno. Dopo la morte di mamma Elena nessuno pensava più di usarla per lavarsi perché tutti preferivano fare la doccia e per utilizzarla in qualche modo l'avevano trasformata in ripostiglio della cucina. In una mano teneva la pentola e nell'altra una lampada a petrolio. Entrò nella stanza e, badando di non inciampare nella gran quantità di oggetti che si trovavano lungo il percorso, cercò di raggiungere il punto dove si mettevano le pentole che non si usavano di frequente. La luce della lampada l'aiutava abbastanza, ma non era sufficiente a far luce alle sue spalle dove si era silenziosamente insinuata un'ombra che aveva chiuso la porta della stanza. Sentendo una presenza estranea, Tita si voltò e la luce delineò chiaramente la figura di Pedro che metteva un chiavistello alla porta. Pedro, che cosa fa qui? Pedro, senza risponderle, le si avvicinò, spense la luce della lampada, la trascinò sul letto d'ottone che una volta era stato di sua sorella Gertrudis e le fece perdere la verginità e conoscere il vero amore. Rosaura, in camera sua, cercava di addormentare la figlia che piangeva disperatamente. La faceva passeggiare per tutta la stanza senza alcun risultato. Passando davanti alla finestra, vide uscire dalla cameretta da bagno un chiarore insolito. Volute fosforescenti si innalzavano in cielo come delicati fuochi d'artificio. Nonostante chiamasse a squarciagola Tita e Pedro perché accorressero a vedere, non ottenne risposta che da Cencia, che era venuta a prendere un paio di lenzuola. Testimone del singolare fenomeno, Cencia, per la prima volta in vita sua, ammutolì di sorpresa e neppure un suono le uscì dalle labbra. Perfino Speranza, a cui nulla sfuggiva, smise di piangere. Cencia si inginocchiò e, facendosi il segno della croce, si mise a pregare: Vergine Santissima che sei nei cieli, prenditi l'anima della mia padrona Elena, che la smetta di vagabondare nelle tenebre del purgatorio. Cosa dici, Cencia? Di che cosa parli? Beh, di che cosa? Non vede che quello lì è il fantasma della defunta? Quella poveretta la deve pur pagare in un modo o nell'altro. Io comunque nel dubbio, ma neppure per scherzo mi avvicino più a quel posto. Oh, neanch'io. Se la povera mamma Elena avesse saputo che anche dopo morta la sua presenza continuava a causare timore e che la paura di incontrarsi con lei dava a Tite e a Pedro l'opportunità ideale per profanare impunemente il suo luogo preferito, rigirandosi voluttuosamente nel letto di Gertrudis, sarebbe morta altre 100 volte. Continua, prossima ricetta, cioccolata e ciambella dell'Epifania.